Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il governo ritira il decreto Salva Roma, saltano i 485 milioni per la capitale, la città ora è a rischio default e commissariamento. Non è chiaro se gli effetti peseranno solo sul 2014 o anche sul bilancio 2013. Renzi a Treviso in visita ad una scuola e poi in un incubatore di aziende innovative. Contestazioni da Forconi, Forza Nuova e Lega col lancio di arance. Lui dice è normale, non facciamo passerelle. Il 17 marzo bilaterale con la Merkel, illustreremo le misure sul lavoro, dice il Presidente del Consiglio. Intanto il Movimento 5 Stelle ha intenzione sull'espulsione dei 4 senatori sulla quale gli iscritti votano oggi. Altri 4 sarebbero pronti a lasciare il gruppo e ad unirsi ai dissidenti. Un'altra senatrice poco fa ha detto che ha intenzione di lasciare l'incarico. Si apre la partita dei sottosegretari e dei viceministri, si ipotizza che siano 50, il PD Francesco Boccia, Mix 24, non credo ad una legislatura intera, temo che si voti fra un anno. Ucraina, incertezza sulla formazione del nuovo governo, il Fondo Monetario intanto promette aiuti, tensione in Crimea, si teme una secessione. A 24 anni di distanza dai fatti torna in un'aula di giustizia il delitto di Via Poma, prevista per oggi la sentenza di Cassazione che dovrebbe confermare l'assoluzione del fidanzato di Simonetta Cesaroni. Era uno dei più grandi chitarristi del mondo, riduttivamente inquadrato come interprete di flamenco. Se ne va a 66 anni durante una vacanza in Messico, Paco De Lucia. L'audio che sentite è l'audio della contestazione a Matteo Renzi durante la sua visita a Treviso, una visita a Treviso annunciata appunto nei giorni scorsi, ieri. In questo momento tra l'altro Renzi sta tenendo una conferenza stampa, c'è là Paolo Piacenza che sta seguendo questa giornata. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Renzi ha appena concluso la conferenza stampa, sta partendo, lasciando Treviso, Palazzo Rinaldi, dove ha incontrato gli imprenditori, per andare a Itchfarm, l'incubatore di start-up innovative che è uno dei poli dell'innovazione della marca trevigiana, anzi direi di tutto il nord-est. Ma cosa ha detto Matteo Renzi dopo la contestazione, dopo la difficile passeggiata attraverso il centro di Treviso che ha dovuto affrontare, che ha voluto affrontare e che gli è costata qualche contestazione? Ha raccontato di cosa ha parlato agli imprenditori, cosa ha detto agli imprenditori. Innanzitutto si è detto in particolare sui temi economici, ha sottolineato che per quanto riguarda l'effetto del taglio da 10 miliardi ipotizzato, lo strumento sarà scelto con calma, quindi la scelta dello strumento, se il taglio dell'IRAP o non necessariamente in alternativa, ma comunque la scelta dello strumento sarà precisata in seguito. Però ha ribadito, come aveva ribadito questa mattina il ministro Poletti, anche l'entità del taglio, del peso del taglio, cioè 10 miliardi. Renzi ha sottolineato la scelta di andare nelle scuole, questa mattina aveva fatto un tweet, l'Italia riparte dalle scuole, questo è un po' lo spirito che anima la scelta di Renzi di attraversare e andare nelle scuole. Ha raccontato di un incontro con la famiglia di un ragazzo morto di leucemia che ha voluto donare alla propria scuola dei fondi raccolti per l'auditorium, la scuola di musica della propria scuola. Per quanto riguarda le contestazioni, Renzi ha detto è normale, se io vengo in posti dove c'è aspettativa, c'è tanta aspettativa, ma c'è anche tensione, è normale che questo sia la reazione. Grazie, ti ringrazio a Paolo Piacenza, grazie a Paolo Piacenza per questi aggiornamenti. E noi veniamo adesso alla Camera, dove c'è stato sostanzialmente quello che è stato il primo vero atto di questo governo, ossia il ritiro del decreto Salva Roma. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, proprio così Simone, parte male il primo giorno del governo Renzi, l'esecutivo si arrende e ritira il decreto Salva Roma, lo ha riferito il ministro per i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi in conferenza dei capigruppo in corso a Montecitorio. Il governo prende atto dell'ostruzionismo e ritira il provvedimento, il decreto, lo ricordiamo, era già stato ritirato dal governo Letta a fine dicembre 2013. Esulta la Lega Nord per Massimiliano Fedriga, viene bloccato l'ennesimo salva sprechi, non la pensa così Gianluca Peciola, capogruppo Sale in Campidoglio, per il quale il blocco è un danno enorme per la città. Altro capitolo nel governo è la partita dei sottosegretari, e qui ci sarebbe un'apertura da parte di Renzi ai lettiani, ai bersaniani. Si parla di De Micheli, Stumpo, Fiano, Renziano, PD che potrebbe andare agli interni. Minniti invece potrebbe rimanere sottosegretario con il controllo dei servizi segreti. Per il nuovo centrodestra si parla di Costa e anche di Saltamartini. Oliveri per i popolari otterrebbe un posto. Moavero, ex ministro affari europei, dovrebbe restare sottosegretario a Palazzo Chigi con delega all'Unione Europea. Insomma, si parla di 50 nomi, Simoni, tutti politici esperti per affiancare, diciamo così, i ministri più giovani. A te. Grazie Elisabetta Fiorito, e chissà se veramente il governo si è arreso alle opposizioni ed è partito male, oppure se in realtà è stata una scelta precisa. Lo chiederemo tra un attimo a Stefano Folli, ma intanto ci sentiamo, parlava Elisabetta Fiorito dei lettiani, ci sentiamo Francesco Boccia del Partito Democratico, che è un lettiano intervenuto questa mattina a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli, che dice, insomma, secondo me fino a fine legislatura non ci si arriva. Lei ci crede all'orizzonte del 2018 per Renzi? Le confesso che non ci credo. Non perché ci credo. Il quadro che abbiamo di fronte, io mi auguro che si possa arrivare al 2015 avendo fatto le riforme. Senta, che Letta stava già iniziando a fare. Se, e se mi permette di completare, prego, il concetto, certo. Prima con Letta si aveva la certezza che l'alleanza con i partiti di centro e di centrodestra, escluso Berlusconi, che era fuori gioco, sarebbe stata un'alleanza a termine, a fine 2014. E invece all'improvviso è cambiato lo scenario, questa alleanza diventa di legislatura. Io vabbè, lei non ci crede. Si vota tra un anno? Quante probabilità? Spero di no, temo di sì. Ed eccoci dunque ad analizzare queste giornate. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. La prima domanda che ti voglio fare, forse l'avrai intuita perché eri già in linea, se secondo te questa decisione di ritirare il decreto Salva Roma è stata una precisa scelta, come dire, politica, o se veramente il governo si è dovuto arrendere all'ostruzionismo? Ma io penso che si sia arreso all'ostruzionismo di fronte a una situazione che stava sfuggendo di mano, ma non è detto che, per l'eterogenia dei fini, non è detto che questo ritiro non vada incontro anche a una certa diversa visione della, che il governo vuole impostare, e quindi avere il tempo anche di reimpostare questo problema, penso che sia forse la spiegazione più logica. Senti, questo per quanto riguarda il decreto Salva Roma. Invece questa prima giornata di Renzi a Treviso, che cosa dici? Dico che Renzi ha cominciato questa operazione d'immagine, l'ha cominciata, per l'età la sta proseguendo, questa operazione d'immagine che lui stesso ha annunciato, che lo porterà in giro per l'Italia, un grande tour che assomiglia molto a una campagna elettorale. Naturalmente ci si aspetterebbe piuttosto che il Premier rimanesse a Palazzo Chigi ad affrontare gli infiniti problemi che lui stesso ha indicato, ma credo che invece l'idea di consolidare la propria immagine farà premio anche su altre considerazioni. D'altra parte, il punto di fondo rimane la questione della legge elettorale. Naturalmente la legge elettorale sarà totalmente sganciata dalla riforma della Costituzione, ne sono credo abbastanza certo, e questo significa che se Renzi avrà la riforma elettorale ipermaggioritaria, il cosiddetto Italicum, avrà in mano anche la grande carta da giocare per sciogliere il Parlamento in tempi non molto remoti. Non molto remoti. Quindi Boccia potrebbe avere ragione, cioè si potrebbe votare tra un anno, secondo te? A parte Boccia, insomma, sono molti a pensare che questa sia la prospettiva. Adesso non lo può fare perché non ha la riforma elettorale. Se dovesse averla, lo scenario cambierebbe completamente. Grazie anche per oggi al nostro Stefano Folli e all'ascoltatore che ci scrive via SMS al 349-238-6666. Che dire bastardo non è contestazione, insomma, non so a questo punto che cosa sia contestazione. Comunque, parliamo invece delle prime reazioni a questo governo, la formazione formazione di questo governo da parte di Confindustria, perché è intervenuto poco fa il presidente Giorgio Squinzi. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Semplificazione burocratica, taglio di almeno 10 miliardi del cuneo fiscale, intervento deciso sui debiti della pubblica amministrazione. Queste le richieste che il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi durante il convegno di Accredia Censis rivolge al governo Renzi. Sono temi, ha detto il leader degli industriali, che il nuovo premier ha presente, esigenze che ha captato durante il suo discorso al Senato, ma staremo a vedere se le promesse verranno mantenute, ha detto Squinzi. Siamo 6-8 mesi per dare un giudizio, insomma un'apertura di credito ma anche cautela da parte degli industriali. Squinzi si è poi detto preoccupato per la situazione economica del nostro paese, che ha definito drammatica. Non aspettiamoci una ripresa vigorosa dopo 9 trimestri consecutivi di PIL negativo, stiamo strisciando il fondo, abbiamo bisogno dunque di riforme, di queste riforme necessarie per poter tornare a competere e poter ripartire. Tutto questo, come dicevo, durante il convegno di Censis Accredia, durante il quale è stato presentato il rapporto qualità, crescita e innovazione, secondo il quale è buona la propensione all'innovazione e alla crescita delle nostre imprese, nonostante la crisi dunque rimane alta la qualità del sistema produttivo, ma diminuisce invece la qualità della vita, del contesto socio-economico, dell'ambiente e dei servizi pubblici, e come sempre c'è evidente il dualismo tra nord e sud del paese. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E noi adesso ci spostiamo a Kiev per fare un punto sulla situazione in Ucraina. Le nuove autorità ucraine hanno smantellato gli odiati Berkut. Le truppe di elite della polizia antisommossa, protagoniste delle repressioni dei mesi scorsi contro i dimostranti del Maidan. Si tratta di qualche migliaio di uomini, molti di loro vengono dalla Crimea, la regione più ostile al nuovo sistema. Da qui vengono le maggiori preoccupazioni per Kiev, che ha lanciato l'allarme separatismo, anche se finora Mosca non ha risposto alla richiesta di annessione che viene dalla penisola dove la Russia mantiene le basi della flotta del Mar Nero. La Russia non intende intervenire, ha ripetuto oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha però chiesto alla comunità internazionale di condannare il sentimento che ha definito nazionalista e neofascista nei confronti dei russofoni che vivono in Ucraina. Mosca ribadisce inoltre che non intende prendere posizione sul sostegno finanziario all'Ucraina prima di vedere installato un governo legittimo. Per questo bisognerà attendere le elezioni parlamentari e presidenziali dei prossimi mesi. Ma per far fronte all'emergenza finanziaria del paese non c'è così tanto tempo. Per stringere i tempi, il presidente ad interim Turchinov potrebbe anticipare a questo pomeriggio l'annuncio di un governo di unità nazionale. Antonella Scotto, Radio 24, Sole 24 Ore. E veniamo alla cronaca italiana. Torna in aula il delitto di Via Poma a 24 anni. 24 anni dall'uccisione di Simonetta Cesaroni. La Cassazione dovrà decidere se confermare l'assoluzione dell'ex fidanzato. 24 anni dopo, il delitto di Via Poma potrebbe restare di nuovo senza un colpevole. Oggi la prima sezione penale della Cassazione è chiamata a decidere se confermare l'assoluzione di Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, condannato in primo grado nel 2011 a 24 anni di reclusione e poi assolto in appello l'anno dopo. Simonetta Cesaroni fu uccisa negli uffici dell'Associazione Alberghi della Gioventù in Via Poma, a Roma, il 7 agosto del 1990. L'assassino infierì sul corpo con 29 coltellate. Lungo e tortuoso l'iter delle indagini, costellato di colpi di scena. Inizialmente venne fermato il portiere dello stabile, Pietrino Vanacore, poi scarcerato. Si suicidò anni dopo, nel 2010, nel biglietto d'addio scrisse del peso di 20 anni di sospetti. Poi venne indagato e prosciolto Federico Valle, nipote di un architetto che abitava nel palazzo. Ad indirizzare i sospetti su Busco sono state le indagini del RIS, le tracce sul corpetto e i segni sul seno di Simonetta. Una perizia completamente demolita in appello. Oggi l'ultima parola. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, e Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento. Se n'è andato uno dei più grandi chitarristi del mondo. Quello di Paco de Lucía non era flamenco spagnolo per turisti annoiati che affollano i bar di Cordova, Siviglia, Granada in Andalusia. Era pura chitarra classica, dove le sei corde rigorosamente in nylon al solo tocco vibravano ad una velocità impressionante. Era la tradizione popolare più pura del flamenco, che si mischiava con l'improvvisazione del jazz. Paco se n'è andato a 66 anni, lasciandoci un numero notevole di album di altissima caratura e collaborazioni con i grandi della musica di sempre. I compagni di scorribande chitarristiche John McLaughlin e Aldi Meola, con cui ha realizzato opere memorabili e celebri tour mondiali come Friday Night in San Francisco, il pianista Chick Corea e il chitarrista fusion Larry Coryl. C'era un tratto triste e nostalgico della sua musica, quel flamenco ascoltato da bambino nei vicoli della sua Cadice, con il volto proteso dall'altra parte del canale verso il Marocco, e quel miscuglio di genti e di voci che ancora oggi puoi ascoltare lungo le strade del quartiere popolare zingaro sivigliano di Triana, cioè il suono di una società multietnica a cui Paco aveva fatto per anni da colonna sonora. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Renzi in visita ad una scuola a Treviso e adesso andrà in un incubatore di aziende innovative. Contestazioni da Forconi, Forza Nuova e Lega con lancio di arance. È normale, non facciamo passerelle, dice lui. Ha sicuramente captato i problemi su cui dobbiamo intervenire, dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Ora vogliamo essere tranquilli che Renzi mantenga queste promesse. Il premier conferma taglio ai 10 miliardi per il cuneo fiscale. In Ucraina incertezza sulla formazione del nuovo governo, il Fondo Monetario intanto promette aiuti, tensione in Crimea, si teme una secessione. A 24 anni di distanza dai fatti torna in un'aula di giustizia il diritto di Via Poma, prevista per oggi la sentenza di Cassazione che dovrebbe confermare la soluzione del fidanzato di Simonetta Cesaroni. Saluto Stefano Antonio Dejak, spero di aver pronunciato giusto, è ambasciatore a Kampala, capitale ugandese, buongiorno. Stefano Antonio Deia, che ambasciatore a Kampala. Eccoci qua. Allora, ambasciatore, perché la chiamiamo? La chiamiamo perché nei giorni scorsi è stata approvata in Uganda una legge che prevede sostanzialmente la repressione degli omosessuali. C'è stata una vittima ieri, un ragazzo che è stato ucciso. Vorrei capire da lei innanzitutto che cosa prevede questa legge. Questa legge porta molto oltre. Mi sente? La sentiamo, anche se lei non mi sente, perché chiudo il microfono in maniera che i nostri ascoltatori possano ascoltarla meglio. Ottimo. Allora, l'omosessualità in Uganda è sempre stata un reato, definito tale dal codice penale che l'Uganda ha ereditato nel 62 nel momento dell'indipendenza dalle normative britanniche dell'epoca, però finora era un reato senza un dettaglio così specifico come quello che adesso interviene con questa nuova normativa, che individua una serie di reati di omosessualità punibile con 14 anni di galera, una categoria di omosessualità aggravata, ovvero sia intesa di atti omosessuali con minorenni da parte di persona affetta dal virus HIV. E poi una serie di reati di, diciamo, favoreggiamento punibili con pene dai 2 ai 7 anni. E, favoreggiamento che cosa si intende? Favoreggiamento cosa si intende, ambasciatore? Ma favoreggiamento ha diverse accezioni, può andare dall'affittare una casa a degli omosessuali per degli incontri omosessuali, a essere parte organizzante di questi incontri, è tutto sommato una categoria altrettanto preoccupante perché proprio non è così specificamente individuata e come in tutte le leggi poi è l'attuazione che fa tutta la differenza. Che fa la differenza? Un atteggiamento fortemente persecutorio, è chiaro che poi sì, c'è un'interpretazione più estensiva che restrittiva di queste categorie. Senta, infine la, sì, la nuova legge praticamente mette fuori legge qualsiasi organizzazione, ente, organismo che protegga o promuova i diritti degli omosessuali. Sento una cosa, vorrei capire anche da lei com'è il clima in questo momento nel paese. Il clima non è positivo di per sé stessa, perché questa legge contravviene anche ad alcuni impegni internazionali dell'Uganda nella difesa dei diritti umani, in particolare la Carta Africana dei diritti umani e delle genti e il Patto Internazionale sui diritti politici, e questa legge arriva diciamo in Uganda per via di alcune lobby, alcune delle quali di movimenti religiosi estremisti, che hanno fatto della lotta all'omosessualità un aspetto dirimente della loro fede, e quindi c'è il rischio concreto che questa l'applicazione e l'attuazione di questa legge avvenga sotto una forte spinta emotiva, che non è quella della contrarietà generale degli ugandesi in generale nell'Africa subsahariana. Posso dire che la gran parte della gente è contraria, ma esiste anche uno spirito di tolleranza che fino adesso ha evitato questo tipo di criminalizzazione, degenerazione e di criminalizzazione, che purtroppo viene a scomparire nel momento in cui questa contrarietà viene sobillata e eccitata da una legge in senso persecutorio. La ringrazio, grazie ambasciatore per averci chiarito e per averci dato spiegazioni su questa vicenda, e saluto adesso Ignazio Cutrò, e ritorniamo all'Italia, che è un imprenditore. Cutrò, buongiorno. Buongiorno. Allora, è un imprenditore, non è solo un imprenditore, è un imprenditore che lotta contro il racket. L'abbiamo chiamata perché io so che in questo momento lei si è incatenato, ma evidentemente ha una mano libera per stare al telefono, sì. Davanti al Viminale. Allora, come mai? Noi abbiamo preso delle catene e ce le siamo messe al collo, anche per poter avere la possibilità anche di parlare con voi. Noi innanzitutto siamo catenati io qua e Gianfranco Franciosi, perché per i silenzi e non l'applicazione delle leggi a favore del sistema di giustizia è mancato la mancata applicazione della legge sui testimoni per l'inserimento nella pubblica amministrazione, perché lei sostanzialmente ha testimoniato contro chi praticava estorsioni contro di lei, e lei ha ricevuto una serie di danni, credo che ormai siano nell'ordine delle centinaia di milioni, no, alla sua azienda. Che azienda ha lei? Io avevo un'impresa di movimento lavori edilizi e sbancamento terra, lavori stradali, quindi la mia azienda oggi mi è stata messa in ginocchio. Io un paio di giorni fa ho messo in vendita la mia azienda, la potete trovare sul mio sito, la lista dei mezzi che ho messo in vendita, www.ignaziocutro.com, vendo la mia azienda, e oggi sono venuto qua per vendere allo Stato e me ne vado via dall'Italia, ma non ho perso io. Dove se ne va, Cutro? Ma io anche a fare cameriere, dove i testimoni di giustizia siano trattati giustamente e con dignità. Qua la mala burocrazia e le risposte della politica ci hanno portato alla miseria. E non ha paura, non teme per la sua vita? Ma io non sono un robot, io ho paura, ma sono determinato e non faccio come gli struzzi che mi metto la testa sotto terra. Io sono a testa alta e schietta. Cosa chiede allo Stato, Cutrò? Le dico tra l'altro, nel frattempo che ci arrivano sms di ascoltatori che le fanno i complimenti per questa sua battaglia. Cosa chiede allo Stato, Cutrò? Io chiedo allo Stato di trattarci come figli dello Stato, di trattarci come cittadini italiani, di mettere il testimone di giustizia come fiore all'occhiello dell'istituzione e non considerarlo il testimone come ombra al buio. E quindi però concretamente, cioè io capisco, lei richiede un riconoscimento morale, però immagino anche un riconoscimento materiale. Sì, che vengono applicate le leggi, perché si vantano di avere, è vero, il miglior programma per i testimoni di giustizia al mondo, che poi nell'applicazione delle leggi non vengono applicate. I testimoni muoiono di fame, chiedono i soldi, come dice la legge, non vengono date. Io chiedo che venga applicata quella legge per fare studiare i miei figli, perché non ho reddito, i miei figli hanno perso gli studi, io non ho più coraggio di guardare i miei figli negli occhi, tanti altri non possono mangiare. Cioè, in teoria ci sono le leggi a favore, non vengono applicate, e se è una questione di normativa, che lo Stato li cambi. Quanti sono nella sua condizione, Cutrò? Allora, io ho fatto nascere la prima associazione nazionale testimoni di giustizia assieme ad altri testimoni. In tutto siamo 88 testimoni di giustizia in Italia. E assieme all'associazione abbiamo preparato un decreto legge che poi si è trasformato in decreto legge per l'assunzione del testimone di giustizia in Italia. E ad agosto è stato approvato, e gli emendamenti sono passati a ottobre, e da novembre che è sulla scrivania del vice ministro dell'interno e del ministro dell'interno, e questo decreto attuativo non viene applicato. Quindi si potrebbe dare dignità ai testimoni di giustizia impiegandone nelle pubbliche amministrazioni. Quindi risposte per i testimoni che denunciano, per le imprese non ce ne sono, per portarle al lavoro non ce ne sono, e no di qua, no di là, non lo so, forse abbiamo sbagliato tutto. Grazie Ignazio Cutrò, imprenditore anti-racket, in questo momento incatenato davanti al Viminale. Come saprà, c'è un momento di passaggio di governo, appena tutto sarà più chiaro vedremo di interrogare anche qualcuno all'interno del Ministero dell'Interno che ci possa dare chiarezza su tutto questo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il governo ritira il decreto Salva Roma, saltano i 485 milioni per la capitale, ci sarà un altro provvedimento, fa sapere la Boschi, ma andremo a rivederlo nel dettaglio, questa è la sostanza, la città ora a rischio default e commissariamento. Renzi a Treviso in visita ad una scuola, poi in un incubatore di aziende innovative, contestazioni da Forconi, Forza Nuova e Lega con lancio di arance. Si apre la partita intanto dei sottosegretari e dei viceministri, si ipotizza che siano 50. Il PD Francesco Boccia, mix 24, dice: temo che si voti fra un anno. In Ucraina incertezza sulla formazione del nuovo esecutivo, il Fondo Monetario intanto promette aiuti, tensione in Crimea, si teme una secessione. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi innanzitutto è una giornata che ha visto un'altra asta di titoli di Stato, o titoli di Stato a sei mesi, che è andata bene, uno 0,455% di rendimento contro lo 0,59% dell'asta di gennaio. Qualcuno già titola effetto Renzi, in realtà c'è molta liquidità in giro e questo lo raccontiamo ogni giorno. Naturalmente Renzi, se c'entra solo minimamente. Borsa in realtà in perfetto pareggio, almeno a Milano, Isabella. Sì, Milano in pareggio, le altre borse sono marginalmente negative, una giornata piuttosto incolore per le borse europee, che sono in cerca di nuovi spunti, intanto arretrano rispetto ai massimi da sei anni a cui si erano portate nei giorni scorsi. Piazza Affari ha tentato un rialzo dopo l'esito positivo dell'asta BOT, il movimento però ha avuto una breve durata. Chiedo scusa, per quanto riguarda i singoli titoli invece? Ma a Piazza Affari Fiat sale di un 1,9% ed è sostenuta da un giudizio favorevole da parte degli analisti di Mediobanca, che puntano sul recupero delle vendite in Europa. Prismian fa più 3% dopo lo scivolone di ieri, gli analisti rivedono a mente fredda i conti 2013 diffusi appunto ieri con giudizi sostanzialmente positivi. ST vanta un progresso del 3%, questo sull'aspettativa che stia migliorando il mercato europeo dei chip. Vanno bene in particolare le Unipolsai, fanno più 2,7%, beneficiano tanto di alcuni report favorevoli che della notizia che la società entrerà a far parte dell'indice Stoxx 600 a fine marzo. Bene tutta la galassia, Goldman punta in particolare sulle Unipol che fanno più 7,8%, gli analisti di Equita sulle Unipol privilegio più 7,7% adesso. Infine ti chiedo di Enel, negativa, un punto percentuale di calo. Sì, Enel segna un calo dell'1%. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, saluto Enrico Zanetti, deputato di Scelta Civica, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, bentornato a Effetto Giorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, grazie per aver accettato, perché l'abbiamo chiamata un po' sotto, perché il governo ha appena ritirato il decreto Salva Roma, sul quale si erano appuntate anche delle vostre critiche, Zanetti, quindi vorrei capire innanzitutto se siete soddisfatti, se è soddisfatto del ritiro di questo decreto. No, del ritiro in sé non siamo soddisfatti, noi abbiamo mosso delle critiche come sempre di merito puntuali su singole disposizioni, non all'impianto del decreto nel suo complesso che contiene molte norme utili, le stesse norme su Roma sono necessarie perché altrimenti il comune va al dissesto, poi c'erano norme legate all'Expo per Milano, norme legate alle aree alluvionate, il decreto nel suo complesso meritava di andare avanti e se è stato bloccato è solo perché ci sono state delle opposizioni di tipo fortemente ostruzionistico che hanno reso fisicamente impossibile arrivare alla conversione in tempo. Le nostre critiche erano legate all'aspetto specifico del risanamento del Comune di Roma nella parte in cui chiedevamo che nell'istante in cui si dava corso all'ulteriore salvataggio venissero però inserite delle norme molto stringenti per quanto riguarda la giungla delle partecipate, prevedendo dei vincoli alla possibilità di assunzione e quant'altro in quelle partecipate in perdita sistemica. Perché Zanetti non è che puoi sganciare mezzo miliardo di euro a Roma e non pretendere niente, no? Vista la situazione. Certo, però dei guardi, conti. Le dico la verità, questo è chiaro soltanto a noi di Scelta Civica, perché da un lato abbiamo avuto le altre forze di maggioranza che per questioni anche di legami, ahimè, territoriali con gestioni loro attuali o passate hanno invece fatto muro, e dall'altra invece abbiamo avuto opposizioni che come al solito sparano nel mucchio, hanno come obiettivo essenzialmente fermare le norme piuttosto che migliorarle. Per noi invece è chiarissimo che il decreto ha molti aspetti importanti per tante fasce della popolazione italiana, ma volevamo per l'appunto che non ci fossero a fine regalie. Guardate, la solidarietà non deve mai essere in discussione in una comunità nazionale, ma la solidarietà senza responsabilità è il male assoluto che ha portato questo paese a un passo dal baratro. Senta, Zanetti, ma non è che secondo lei, adesso glielo chiedo così, in linea di principio sarebbe il caso che a un certo punto anche le città aperte virgolette si prendessero le loro responsabilità, e quindi come può fallire Detroit è giusto che fallisca anche Roma senza che interveniamo noi a sganciare questi 500 milioni di euro che magari potremmo utilizzare in maniera più proficua? Non vi è dubbio che le città devono cominciare a assumersi le loro responsabilità, dopodiché ci sono diversi percorsi attraverso i quali farlo. Se i nostri emendamenti fossero stati approvati e quindi noi non avessimo poi avuto la perplessità che ci ha portato al Senato ad astenerci, avremmo avuto un percorso di risanamento ed aiuto che è alternativo a chi in modo magari un po' più brutale dice facciamo direttamente fallire, ma inserito in un contesto in cui cominciavano a venire poste delle norme molto stringenti, per certi versi capestro, rispetto all'autonomia del comune di fare un po' quello che vuole, posto che quando ha avuto questa autonomia di certo bene non ha fatto. Ripeto, io non sono per l'idea bisogna per forza far fallire, se si può dare una mano è giusto dare una mano, però nell'istante in cui dai una mano devi avere il diritto di poter, come dire, pretendere un po' la sovranità di chi la mano te la chiede. È un po' il concetto come nel nostro rapporto con l'Europa. L'Europa la solidarietà la dà, ma pretende poi a quel punto delle limitazioni di sovranità. Io lo trovo un criterio ragionevole. Il problema non è tanto non accettare questo dall'Europa, ma incominciare a farlo anche in Italia. Brevissimamente, Zanetti va a fare il sottosegretario o no? Questo francamente non lo so. Ancora non lo sa. Se c'è la possibilità di dare una mano dove io ho delle competenze, credo, discrete, lo farò volentieri, altrimenti me ne resto volentierissimo. Perché parlavano dell'interno, l'interno lo accetterebbe? No, ma neanche morto, ma figuriamoci, una cosa ridicola, cosa vado a fare? Non ha senso, no, quella è un'ipotesi... Neanche sono molto molto soddisfatto e contento allora, di questa attenzione, ma deve avere un senso la cosa, sennò meglio stare in Parlamento. Zanetti, la saluto e la ringrazio perché abbiamo in linea sempre sul decreto Salva Roma, perché ci interessa questa cosa, l'uomo che era il relatore, tra l'altro neo segretario del PD del Lazio, Fabio Melilli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Melilli, solo una questione di ostruzionismo o forse c'è anche una scelta di governo ben precisa? No, la vicenda è legata ad un cambiamento di posizione del Movimento 5 Stelle, che da una posizione collaborativa al Senato passa all'ostruzionismo tattico per mettere in difficoltà il governo. Insomma, non mi pare che ci siano contenuti. Mi piace sottolineare che loro ci tengono sempre a dire che stanno dalla parte dei cittadini. Questa volta non sono stati dalla parte dei cittadini, né di Roma, né della Sardegna, né di tutte le zone che avevamo erano interessate all'approvazione di questo decreto. Però me lo fa fare un chiarimento, visto come che no? Mi ha fatto ascoltare la parte finale del vostro dibattito. Sì. Io penso che dobbiamo recuperare un po' di saggezza, lo dico e cerco di spiegarmi. Allora, la posizione di Scelta Civica non è una posizione irragionevole. Io penso, come il collega, che quando chiediamo ad un comune un piano di risanamento dobbiamo chiedergli anche di fare delle cose. Quello che non era tollerabile è che non è mai successo nella storia repubblicana che un governo obblighi un comune a fare scelte di dettaglio. Cioè, non puoi dire al comune tu privatizzi quella società, perché quando le regioni si sono trovate nei deficit sanitari, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alle regioni, ai governi, un piano di rientro. Cioè, lei dice, Melilli, giusto per chiarire, dice, tu puoi dire ad un comune fai delle privatizzazioni, ma non gli puoi dire privatizza. Tu puoi dire al comune, come avevamo detto poi, e trovando una sintesi al Senato, fai un piano di rientro e dimostraci che ti stai comportando in modo corretto. Non puoi dire tu fai la raccolta differenziata in questo modo, perché qui violiamo articoli che sono sanciti dalla Costituzione, che sono l'autonomia dei comuni. Invece puoi dire al comune: guarda, ci facciamo questa operazione che ti aiuta e tu in cambio presenti un piano di rientro e ci dici, visto che non è colpa tua ma è colpa magari di quelli che c'erano prima, ora scegliete voi qua quanti questo anni indietro bisogna andare, ma dimostraci che ti stai comportando in modo ma non è meglio fare l'opposto? Cioè, prima farsi dare cammello e poi consegnare il denaro, cioè prima mi consegni il piano di rientro anche qui, e poi. Però mi permetta, anche qui lei commette un piccolo errore. Noi non stiamo dando nessuna lira a Roma, non stiamo dando denaro a Roma. Io vorrei che il dibattito di questi giorni recuperasse almeno un po' di serenità. Allora, no, non esiste l'erogazione di un euro da parte dello Stato a Roma, si sta semplicemente spostando tecnicamente una cifra che stava nei bilanci del commissario che deve recuperare il dissesto al bilancio di Roma. Non è che lei ha detto prima con quei soldi potevamo farci altre cose, non è così, mi permetta. Noi abbiamo semplicemente detto una cifra di crediti di cui dispone il commissario, diciamo che gestisce la parte di dissesto, la sposti dal dissesto al comune. Al quindi comune sono soldi stesso di Roma, non sono soldi dello Stato. Ok, su questo è chiarissimo, Melilli, ho veramente 30 secondi. Ha detto la Boschi che arriverà un altro provvedimento con probabilmente qualcosa di diverso. Ci conferma? Non riproporrete lo stesso? Mi sono permesso questa mattina, per avere qualche piccola competenza in materia, avendo fatto il direttore generale dell'ANCI da piccolo, che anche qui c'è un'altra anomalia. Non esiste nella nostra storia repubblicana che un piano di rientro sia stato approvato per legge. Lo fece Tremonti e bisognerebbe chiedere a Tremonti il perché lo fece con legge. Bisogna semplicemente delegificare la materia. Non è necessario che la legge dica quello che abbiamo detto finora. Sì. La legge deve dire il commissario è autorizzato a fare operazioni che poi vengono fatte in via amministrativa. E penso che qui ci sia lo spazio per reiterare, non nello stesso modo, un decreto che, come sapete, per la terza volta non potrebbe ma essere rischia in 10 secondi, ma in questo momento Roma rischia default o commissariamento ulteriore? No, Roma rischia questo. Per il 2013 10 non secondi rischia nulla, perché il 2013 senza questo rischia, rischia per il 2014. Rischia però di gestire nel 2014 un bilancio che è ingestibile, perché mancano denari per poter dare servizi ai cittadini a sufficienza. E quindi rischia di fatto un default di fatto, diciamo. Rischia una gestione attuale del 2014 in dodicesimi, perché non potrebbe approvare il bilancio, drammatica, e questo va a discapito dei cittadini di Roma. Grazie a Fabio Melilli, relatore del decreto Salva Roma, neo segretario del PD del Lazio. Siamo in ritardissimo. Viabilità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Linea d'America 24, è Mario Platero. America 24. di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. By a vote of 169 for and 139 against, Matteo Renzi won the backing. Renzi, beh, si parla molto dell'Italia, si parla molto del nuovo governo che ha preso la fiducia. Io ho parlato, continuato a sentire un po' tra Washington, New York, Boston, investitori, politici, esperti, per capire un po' qual è il sentimento nei confronti di questo cambiamento italiano. Devo dire che la reazione che ho avuto è che veramente qui non ci si sta a preoccupare troppo se i nuovi ministri sono troppo giovani o sono inesperti, non ci si sta a preoccupare di quello, ma si pone l'accento sui risultati concreti, con un messaggio preciso che arriva, devo dire, da Washington e in particolare da fonti molto vicine alla Casa Bianca, e cioè che la sfida per Matteo Renzi è quella di avere una riforma importante prima dell'arrivo di Barack Obama a Roma il 27 di marzo, cioè fra poco più di un mese. Meglio se questa riforma è di natura economica. E ho avuto conferma, tra l'altro, di questa posizione generale che ho registrato un po' dappertutto, in vari ambienti, vi dicevo, economici e politici, da una chiacchierata che ho fatto con Tony Podesta. Tony Podesta lo abbiamo intervistato qui a Radio 24, su America 24, tempo fa, e forse il più importante lobbista a Washington, e il fratello di John Podesta. John Podesta è uno degli uomini più potenti in questo momento alla Casa Bianca, perché aveva la fiducia del presidente Barack Obama, al punto che Barack Obama al suo primo mandato lo nominò come capo della transizione, come la persona a cui si appoggiava il presidente per reclutare le nuove nomine nella sua freschissima amministrazione. Poi Podesta è ritornato al settore privato, tra l'altro aveva lavorato col fratello proprio in operazioni di lobby, poi si sono staccati ma restano molto molto vicini. E dopodiché, pochi mesi fa, Barack Obama ha richiamato John Podesta alla Casa Bianca come suo consigliere speciale per aiutarlo in questo percorso difficile nel quale si è trovato negli ultimi mesi. Dunque Tony Podesta, fratello di John, è molto well plugged in, è molto bene collegato, e ho chiesto a lui qual è l'atteggiamento di Washington e soprattutto della comunità degli affari nei confronti di Renzi. Sentiamolo. Ecco, Podesta mi dice: beh, Renzi è più conosciuto di quanto non lo fosse Letta quando prese l'incarico di Presidente del Consiglio, perché Renzi è stato a Washington, è molto noto all'interno dei circoli politici, la stampa ha parlato molto di lui anche per quello che aveva fatto nella sua battaglia contro Bersani, però in generale, dice, si guarda in avanti, si guarda a un governo stabile che in Italia avrà più chance per fare ripartire il paese, stimolare la crescita interna, cosa che può anche aiutare l'Europa. Ecco, e questo, sottolinea Podesta, è quello che poi interessa davvero il mondo imprenditoriale americano, una ripresa della crescita europea trainata dai paesi membri, quelli più importanti, tra cui appunto l'Italia. Dunque, dice, un momento importante e Renzi può fare la differenza. Ecco, poi ho chiesto a Podesta dell'incontro imminente tra Obama e Renzi, e gli ho chiesto proprio se ci si aspetta alla Casa Bianca che Renzi debba presentarsi al suo primo appuntamento con Obama con qualche cosa di molto concreto. Sentiamo cosa mi risponde. Iniziare bene è sempre una cosa positiva, questo lo sappiamo tutti. Certamente, dice, ci sono aspettative molto alte che lui possa davvero fare la differenza, e credo che la sua energia sarà ben ricevuta. Si vedrà dunque se sarà in grado di fare le riforme di cui parla in tempi relativamente brevi. Devo dire però che c'è un'altra cosa che mi ha molto incuriosito, di cui si parla, perché Barack Obama non è un personaggio facile. Barack Obama andava d'accordo con Monti, andava d'accordo con Letta, va molto d'accordo con Napolitano, non andava d'accordo con Berlusconi, o meglio, andava d'accordo ma non c'era quel feeling che caratterizza il rapporto fra due leader quando c'è la chemistry, la chimica giusta, la miscela giusta. E dunque la domanda è: ma come andrà con Matteo Renzi? Perché Renzi è molto diverso da Barack Obama. Obama è molto riflessivo, cerca sempre il compromesso. Renzi è più aggressivo, ha un atteggiamento più di rottura. E dunque l'ho chiesto proprio a Podesta. Renzi knows well the Ecco, mi ricorda che forse, mi sembra di aver visto una volta una foto tra Obama e Renzi, ma però si ricorda che i due veramente non si conoscono, non hanno avuto a che fare in modo diretto. Del resto mi ricordo che Renzi era venuto alla Convention Democratica di Charlotte del 2012, si era incontrato lì proprio con John Podesta, si era tentato di organizzare un incontro anche con Barack Obama, ma chiaramente in mezzo alla convention fu una cosa impossibile. I due dunque davvero ancora non si conoscono, si conoscono in modo molto indiretto. E Podesta mi dice letteralmente: certamente Renzi non è simile ad Obama, come lo erano Monti o Letta, ma penso che Renzi conosca molto bene Washington, sarà bene accolto, il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti non dipende da un singolo Presidente del Consiglio. Penso che gli sarà data una chance importante, non è questione di essere simili o no, dice Podesta, secondo me l'importante è avere gli stessi obiettivi. E io credo che gli stessi obiettivi ce li hanno Obama e Renzi, perché sono tutti e due schierati dalla stessa parte, quella che vuol puntare al rilancio della crescita economica senza preoccuparsi troppo dell'austerità. Questo è stato un argomento di contenzioso molto duro fra Washington e Berlino. Ricordiamo, i rapporti fra la Germania e gli Stati Uniti sono a uno dei livelli minimi degli ultimi anni, proprio per questa differenza di impostazione sulle ricette macroeconomiche per rilanciare l'economia. Barack Obama ha bisogno di avere degli alleati nel contesto europeo. Renzi rappresenta per lui davvero un'opportunità importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, Neil Young, il grande Neil Young, ha annunciato l'uscita di un libro di memorie per il prossimo autunno, di Neil Young, Down by the River. She could drag. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Oggi in regia c'era Filippo Aureggi, in assistenza in redazione come sempre Laura Faggin. Un ringraziamento a lei, così come a tutta la redazione di Radio 24. La trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra pochissimo con il giornale radio.